sono in macchina, te l'ho detto che la stavo pulendo poco fa. Mi sono messo tutta pulita, controllato i livelli, anche se vabbè l'avevo portato da poco a fare tagliando, ma sempre meglio controllare. E quei livelli lì, Giulio, sai come, perché le è andata bene? Perché sicuramente il radiatore era pieno, quello lì è la vaschetta di rabocco, che praticamente quando nel radiatore ce n'è di meno, la fa rientrare, capito? E piano piano finisce perché poi evapora, eccetera. È certo che sì, ma poi sono controlli che si fanno dopo un certo numero di chilometri, sono controlli quelli che si devono fare, sono di secondo me molto importante da fare. E io capisco che oggi la macchina è computerizzata e ti avvisa, ma ti avvisa quando? Quando sei proprio all'estremo, quando proprio se stai per fermarti e non va bene, così la macchina tu fai soffrire il motore, fai soffrire, perché ripeto, non ce n'era un guccio, uno, ed era una macchina abbastanza importante tra l'altro, e questo signore non sapeva, è uno che abita qui accanto a me, non sapeva, ma io dice ciò che è il circuito chiuso, sì è il circuito chiuso, però evapora, e di qui evapora, no, cos'è? Caspita, aperto il cofano, infatti gliel'ho riempita io la vaschetta, perché io avevo il bidoncino pieno, l'avevo appena acquistato un paio di giorni fa, quando è che l'ho comprato? Sabato, qua sabato l'avevo comprato, proprio perché? Perché avevo intenzione di fare il rabocco alla macchina che principalmente la usa mia figlia, per cui così è stato, è capitato che lui in quel momento è uscito e mi ha visto facendo questo lavoro, cosa stai facendo? Sto facendo la bocca, ma io dice non l'ho mai controllato, e a posto siamo. Lui allora l'ha preso, l'ha controllato, ma era completamente vuoto. Fatto male che continuavi così, ci si bruciava la condizione della testata, ed è una bella spesa, poi che devi spianare, devi fare un sacco di lavoro. Avanti, già fa. Sì, qualche controllino, perlomeno quelli classici, bisogna farglielo. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio sempre. E quindi è così. Comunque, su quella ti volevo dire, sulla macchina che ho avuto io ad esempio, magari erano sicuramente sempre molto sporche perché, come ti ho detto, sono molto restio a lavarsi, però come motore, una volta che le hanno lavate, che le hanno controllate, eccetera, le hanno vendute immediatamente perché erano auto comunque tenute molto molto bene. Io anche poco fa che ero fuori, me l'è passata quest'auto che veramente lasciava l'odore dietro, una cosa indegna, fumo di olio bruciato. Ma come fanno la gente a distruggersi, sì, anche macchine nuove, o perlomeno non così anziane, a distruggerle perché, boh, chissà per quale motivo, cioè, ma perché devi asfissiare la gente? Più di una volta mi è capitato di dovermi fermare proprio per lasciarli passare, perché è una cosa veramente schifosa, proprio un inquinamento micidiale. Abbiamo capito come fanno a passargli alla revisione quest'altro. Quelli lì sono quei meccanici che diceva Giulio. Ma non è questione dei meccanici, lì non li cambiano i filtri, non li cambiano l'olio, capito? Perché vanno così, specialmente dicono, se non li cambi i filtri, fanno quei fumi, quelle cose puzzinose che non si può stare. Ma quando inizi a sentire odore di quel tipico odore di olio bruciato, quello lì non è il filtro, quello è proprio qualcosa che sta andando, perché è un fumo nero micidiale. Avanti Giulia. Sai cos'è, Giafra, quella gente lì è gente che magari preferisce andare al bar e bersi la birra anziché magari andare a comprarsi un chilo d'olio se è necessario, o 3 chili per sostituirlo completamente. Sono così, certe persone sono fatte così, sono gente, persone trasandate in tutto e per tutto, no? Poi la persona, tu la devi solo guardare nel suo stesso aspetto, quando tu la guardi nel suo stesso aspetto, già in linea di massimo te puoi fare un concetto di cosa può essere anche nel suo modo di vivere e di andare avanti in tutte le cose, per cui tu mi dirai, ma cosa fai, il veggente? No, non faccio il veggente, però la maggior parte delle volte che io ho fatto una certa considerazione mi ha convinto di quello che stavo pensando, per cui non ti meravigliare, purtroppo è così, e cosa ci vuoi fare? Hai visto Gianni? Gianni dice io sono troppo pignolo, ma Gianni fa bene ad essere pignolo, intanto perché la macchina costa un sacco di soldi e poi uno se ce l'ha uno strumento lo deve tenere come si deve, è inutile che tu vai lì a solamente apri lo sportello, ti siedi e parti, no, non è così non che funziona, ci vogliono sempre i controlli, i classici controlli, ma appunto come di quello che stiamo parlando, dai. Avanti Gianni. Così è. Poi la macchina non ti abbandona in mezzo a strada, se li fai tagliandi, se li fai le cose come devono essere fatte. È difficile che ti abbandoni, capito? Invece quando non li fai tagliati e te li freghi, ti abbandona. Io adesso vi saluto che è già venuta l'ora e devo andare, Giulio, dai. Vi saluto, grazie per il QSO e la compagnia, adesso faccio QRT perché devo andare a prendere la 25, dai, ci sentiamo. Ok, ciao Gianni, allora grazie a te per la chiacchierata, ci sentiamo prossimamente, quanto prima. Avanti Gianfra. Sì, ok Gianni, buona serata, alle prossime. Giulio, no, non ci avevo pensato, ecco perché quando incontro questa gente c'è nelle vicinanze sempre quello che in Sassarese chiamano l'uovo in diolo, no? Ecco perché c'è perfettamente ragione. Ma è così, Gianfra, io ripeto, io sono una semplicissima persona, non ho grilli per la testa, niente, però quando vedo un elemento, tante volte me ne rendo conto, ma questo chi è? E questo come fa ad essere messo in questo stato qua? E allora a quel punto dico, perché secondo me uno che è trasandato in se stesso, sulla sua stessa persona, è trasandato in tutto, almeno suppongo che sia così. Poi naturalmente guardate che mi sto anche sbagliando, niente, non è detto che ho per forza ragione nel pensare quello. Però diciamo che un concetto me lo posso fare, no? Me lo tengo per me, io non è che lo vado a dire a lui, perché non me ne frega niente del suo modo di vivere, ci mancherebbe altro. Però in linea di massima è così, Gianfra. Quando uno è trasandato di persona è trasandato in tutto e per tutto, eh. Avanti Gianfra. Sì, su quello è poco ma sicuro. No, perché poi sono anche le menti, noi le diciamo le menti dal barco, quelli proprio mandati così allo sbaraglio, poi magari sono anche mezzo cotti, conviene sempre starci il più possibile alla larga e così via. La vista Giulio, la televisione che l'hanno data con la scena di quello lì che l'hanno dovuto sparare a una gamba perché era matto, perché era uscito di testa, non lo so, però era una scena che ci dice quanti personaggi strani ci sono in giro, ecco. Sì, ci sono, sì, altro che non sappiamo, perché se non fossero persone strane, no, ci sarebbe una miglior vita sicuramente. E tu immaginati quello che andava in giro col picco, capita, che aveva dato una piccola sentenza a quella persona, credite, di questi elementi ce ne sono tanti, gente fuori di testa, come la fuori di testa quella donna che ho visto avanti ieri a Roma, che si è buttata nella vasca, lì si è denudata completamente e si è buttata dentro la vasca, ma quando mai? No, non è possibile, guarda, proprio lì davanti al Parlamento, quella fontana che c'è davanti al Parlamento, eccetera. Ma dico io, una è una persona, io posso capire che è a caldo quanto vuoi, ma vai, rinfrescati la faccia, mettici anche la testa se vuoi, ma non ti puoi denudare e buttarti dentro nella fontana. Non è possibile, Gianfra. Ce ne sono tante fuori in testa nella vita. Ma quella probabilmente si può classificare fare, come una di quelle persone, e purtroppo ce ne sono tante, che lo fanno per ottenere la cosiddetta visibilità, no? Perché forse si sono accorte che sono persone molto molto limitate sotto tanti punti di vista, e quindi l'unico modo per avere visibilità è fare queste cose che per una persona normale sarebbero, come direbbero i giapponesi, poco onorevoli, quindi darebbero del disonore, in parole povere. Quindi sono cose veramente dell'altro mondo, no? Quello lì è andato, che non ricordo cosa ci aveva in mano, una mazza, qualcosa, e poliziotti intorno, eccetera. Meno male, alla fine uno si è deciso, ha detto, beh, adesso ti do un bel colpo, ha sparato, a vedere se si è fermato, perché a volte io tutto questo buonismo non è che lo apprezzi tanto, perché va bene non esagerare, non fare di americani, d'accordissimo, però quando c'è pericolo per gli altri e anche per chi lo deve catturare, avvertito una volta, avvertito due volte, alla terza ti sparo, eh beh, indubbiamente sì, ma quella gente intanto è pericolosa, perché uno che va in giro armato in quel modo è perché è intenzionato a fare del male. E dunque io quando sento tante volte criticare ad esempio la polizia statunitense, la polizia americana, che prendono lì, non prendono la giuria, e quello lì ti buttano subito a terra e subito ti ammanettano, eccetera eccetera, e qualche volta qualcuno viene anche sussato, e tu dici, ma il poliziotto, no, bisogna mettersi nei panni anche del poliziotto, che cosa ne so quello, cosa, se ha qualche pistola in tasca, avete considerato che lì in quei posti tutti quanti sono armati fino ai denti, si può dire, perché non è possibile. Queste cose qua sono assurde da poter accettare, non si possono accettare certe idee, e per cui tanta gente difende, date le mani di quei poliziotti, hanno picchiato quello lì, boom, bam, bam, c'è quella storia. Ma quello è un delinquente, non hai capito che quello bisognerebbe trattarlo ancora peggio, anzi bisognerebbe metterlo in carcere e non farlo uscire più, perché è un elemento pericoloso per la società. Per cui io sono d'accordo anche con quei sistemi, perché se uno è tranquillo, sei tranquillo che la polizia non ti fa niente, no? Non ti può fare niente. Ma se tu invece quando ti affrontano, anche se ti chiedono per dire i documenti eccetera, e tu fai prepotente, sei prepotente, e allora si tratta da prepotente. Io la penso così, Gianfranco. Sì, su questo ultimo punto non sono proprio d'accordo, perché Giulio, i fatti parlano da soli, e noi abbiamo visto ad esempio quello lì, io posso dire che la polizia in quel caso ha doverosamente agito bene, quello che ha fatto quell'operatore estremamente corretto, perché ti avviso, non lo fai, non lo è, e poi fai quello. Per la polizia americana il discorso è totalmente diverso, indubbiamente anche lì ci sono i poliziotti in gamba, ottimi investigatori, eccetera eccetera eccetera, però l'atteggiamento di certi poliziotti è enormemente criticabile, forse altro perché queste critiche sono basate su dei video che sono molto esplicativi, cioè non lasciano adito a nessun dubbio, e non sono tutti delinquenti, anche a me sarebbe essere preso, buttato a terra, e prima di poter dire guardate che quel tizio non sono io, essere magari ucciso perché uno mi mette un ginocchio in testa, non sa se sono cardiopatico, se soffro di epilessia o se soffro di qualunque cosa, mentre è un caso più unico che raro che possa capitare ai nostri nostri carabinieri, la nostra polizia o a qualunque altro operatore di polizia. Di lì invece è all'ordine del giorno, veramente, ogni giorno ce n'è una, tante uccisioni. E poi sono quelle cose, tra l'altro Giulio, che screditano gli altri poliziotti, e questa è la cosa più grave, che magari operano in maniera corretta e non così violenta, perché gli americani, non ce lo dimentichiamo, la violenza ce l'hanno un pochettino, capito? Sono abbastanza pompati su queste cose. Sì, premesso che intanto bisogna conoscere bene i fatti, questo non ci sono dubbi, bisogna conoscere sempre i fatti, parlo anche della polizia americana, indubbiamente, perché, però dobbiamo sempre considerare questo. Quando un poliziotto si avvicina, non è che si avvicina a te, ti chiede i documenti, tu devi rivelare santa pace, devi dare tutti gli estremi tuoi, glieli devi dare. Se tu invece cominci a fare prepotente, magari alzi la voce, ecco, il poliziotto, siccome sa benissimo che c'è gente in giro pericolosa, che ha le armi in tasca, e allora ecco che loro vanno sul sicuro, e purtroppo è così. Certo, non sono tutti i poliziotti che vanno questo atteggiamento con i malviventi, però in linea di massima, guarda, fanno bene a prendersi sicuro, perché loro lì sono per l'ordine pubblico, e per cui l'ordine pubblico, se uno è tranquillo, non ha niente da temere, secondo me. Io la penso in questo modo. Poi se ci sia un poliziotto che esagera, anche ci può anche stare, certo, sicuramente c'è. Però, ripeto, bisogna innanzitutto conoscere i fatti. Io la penso così, Giofra. Beh, i fatti sono stati dettati proprio dalla presenza di video che sono che non danno appello, capito? Non danno appello neanche alla difesa di questi agenti, tanto è vero che sono stati condannati per omicidio, sono finiti con la tutta classica arancione che usano da quelle parti, e sono finiti come sono finiti, ecco, sono stati cacciati via. E di questi ce ne sono veramente tanti casi. Il fatto che ci siano tante armi in giro è indubbiamente, penso, il motivo principale, perché in Europa queste cose non succedono, se succedono, non succedono raramente, non succedono neanche in Germania, che sono molto severi, non succedono in Italia, non succedono in Francia, ecco, sono cose tipicamente americane, cioè americane nel senso degli Stati Uniti, perché è un punto di riferimento, un Stato democratico, ecco. Mentre invece nell'America Latina, ovviamente è una prassi normale, ma lì ci sono regimi dittatoriali, ecco, in quel caso il discorso è totalmente un altro. No, ti dico ciò perché a volte certi media americani hanno detto non andate a Milano, non andate a Roma, che ci sono tanti delinquenti, che è pericoloso. Poi vai a guardarti le statistiche delle città corrispondenti, e negli Stati Uniti hanno un numero di omicidi equiparato alla popolazione che è veramente mostruoso. Guarda che in Italia praticamente di rapine ce ne sono pochissime, di omicidi ce ne sono pochi, c'è spaccio di droga più che altro, ma nel quadro generale c'è una sicurezza molto diffusa, ecco. Sì, vabbè, ma quelle sono tutte cifre che bisognerebbe rapportarle anche col numero degli abitanti, eccetera, per cui ogni paese sicuramente ha i suoi limiti, i suoi problemi e le sue pecche, non ci sono dubbi. Però io mi ricordo con un amico che aveva vissuto per anni in Germania, ad esempio, la Germania, che dicono che sia un paese democratico. È vero, dice, è un paese democratico, mi diceva questo amico che ha lavorato per anni in Germania. Però se tu trovi un delinquente che sta scappando, quello prima ti spara le gambe, poi ti spara in alto. E questo mi diceva sempre, per cui non credere che tutto il mondo è paese per quanto riguarda certi sistemi o poi i più buoni naturalmente bisogna vedere quali sono, questo è da vedere, però sono, ripeto, sempre rapportato anche il fatto di numeri di abitanti. Noi abbiamo 60 milioni di abitanti, l'America ne ha 350 milioni, insomma indubbiamente c'è più casino di quanto ce ne può essere qua, non ci sono dubbi, questo è scontatissimo. Avanti, Gioffa. Infatti forse ci è sfuggito il fatto che ho detto, ho considerato il rapporto tra popolazione italiana e popolazione americana, perché solo così per fare un equivalente serio, ecco. Non ho detto che in Italia ce n'è di meno e in America ce n'è di più, senza considerare il fattore della popolazione. Di lì c'è il terrore che ognuno è armato e che queste armi spesso e volentieri vengono usate, tra virgolette, lo mettiamo pure in maniera impropria. E poi, insomma, succede quello che succede, ecco, perché anche chi spara in maniera impropria poi si trova in situazioni che belle non sono di certo, perché va a finire che se lo mettono dentro anche lui. Insomma, è tutta una serie di cose che comunque in ogni caso non è paragonabile a nessuna nazione europea, ecco. Sempre col rapporto di abitanti, delinquenza, ecco. Beh, certo che sì, bisogna considerare sempre quello, il rapporto bisogna sempre farlo per poi poter dare dei numeri, è ovvio, questo è più che scontato. Ma qui diciamo che siamo anche troppo benevoli, per cui no, certe azioni qua non si possono perdonare. Adesso prendi quel delinquente ultra multi assassino che ne hanno tolto fuori dopo 25 anni, ma vogliamo scherzare? Ma dico io, uno che si è permesso di sciogliere un bambino dentro l'acido, ma cosa tu mi dirai? Ma è pentito e ha aiutato anche lo Stato italiano, perché lui ha fatto scoprire tantissime cose della malavita, eccetera eccetera. Sì, ma questo ciò non toglie che lui debba essere libero, perché intanto io parto sempre da quell'idea, il lupo cambia pelle non il vizio, quello prima o poi fa le stesse cose, non ci sono dubbi, guarda, perché tu non puoi fargli fare 25 anni di carcere a una persona che ha ammazzato oltre 150 persone, e caspita, e magari me le stai facendo fare 15 anni a uno che ha scattato 4 fotografie, magari seppure le ha usate magari a scopo di estorsione, parlo di Colonna per dire, no? Il discorso è sempre questo, oppure continui a perseguire per dire Messina, adesso che ha oltre 80 anni e tutti i giorni gente di Nuvolo, gente che io conosco di Nuvolo, perché di tanto in tanto ci parlo, e mi dico la mattina, quasi tutte le mattine mi devo svegliare con le ricotte sopra la testa, perché stanno cercando a Messina, solo perché sì, ha fatto del danno anche lui, ovviamente ha fatto del danno, però non si possono paragonare certe pene a certe altre, anche se Medino ormai ha fatto 40 anni di galera, non è che sì, poi si è rovinato di nuovo perché ha spacciato eccetera eccetera, però non si possono fare certi paragoni, quello ha aiutato lo Stato e lo lascio libero nonostante che ha fatto 150 omicidi, no, non è possibile, Gianfranco, dai, sono cose assurde, vai. Certo, Giulio, è comprensibile questa cosa, però va anche detto che senza l'apporto di questi personaggi non si sarebbe potuto ridurre il rapporto tra delinquenza e mafiosa. Insomma, molti successi, molte cose sono venute a sapere proprio grazie a queste persone. Poi purtroppo queste persone sono quello che sono, però se non le avreste assicurato quell'incentivo lì, queste persone non avrebbero detto niente, in parole povere, e avrebbero dato l'esempio a tanti altri di non dire niente, che sarebbe stata anche la cosa più grave, se vogliamo. Purtroppo, vedi, su questo Giulio, sì, c'è ragione, però in guerra il fine giustifica i mezzi, capito? I mezzi qua sono di fare qualche ingiustizia per avere più possibilità di evitarne tante altre, però quindi sono scelte difficili da giudicare, ecco, sotto certi punti di vista. Sì, ma indubbiamente sono scelte difficili, certo, però sono scelte difficili a volte anche, non lo so, per qualcuno sono scelte di convenienza o già fra, io questo lo voglio dubitare, poi chiaramente non posso dire che sia realtà quella, però sono senz'altro delle cose assurde da accettare, dai, non è possibile, dai. Oppure come quello capita che tu lavori tranquillamente, sei un gioielliere, hai subito 5-6 rapine, arriva a un certo momento, sei riuscito in qualche maniera ad ammazzare il rapinatore che per l'ennesima volta è venuto a casa tua per derubarti, capita, e tu poi me lo condanni e me lo metti in carcere perché per omicidio, ma dico io, quello che è venuto ha portato un vassoio di pasta la crema, oppure un mazzo di fiori o portati gli auguri di Sanaki, no, quello è venuto lì con l'intenzione di fare male, dunque quello si è difeso e secondo me ha il sacrosanto diritto anche di difendersi, e a questo punto non ne vedo la ragione per quale motivo la persona seria, la persona onesta debba andare in galera e magari il delinquente deve essere risarcito dalla famiglia perché è stato ucciso. No, sono delle cose, guarda, ma veramente che non sanno nel male né in cielo né in terra, non è possibile, guarda, no, assolutamente no. Sì, su quell'aspetto mi trovi assolutamente d'accordo, infatti c'è da... di lì bisognerebbe lavorarci solo, e anche velocemente, perché il fatto di entrare in casa da altri o terrorizzare le persone non giustifica nessun, non c'è né povertà, che probabilmente i poveri si guardano bene da fare questa azione, e non c'è giustificazione, quindi di lì ci vorrebbe chiarezza, soprattutto da una magistratura che ultimamente è caduta a livelli non certo buoni, ecco, diciamocela così. Quindi su quello stai sondando una porta aperta, ci vuole molta più severità, cioè dire chiaro e tondo che se tu vuoi fare una rapina, siccome non te l'ha ordinato il medico di fare la rapina, devi accettare in maniera ben chiara i rischi, se uno ti spara sono cacchi tuoi, punto. Se sei sul suo terreno, nella sua casa, se minaccia la famiglia, ogni discorso deve essere proprio azzerato, diciamo, si può dire solo peggio per te, lo sapevi a cosa andavi incontro, punto. E appunto, il discorso è sempre questo, no? Non è possibile, ad esempio prendiamo adesso un fatto recentissimo, questo è successo, la notizia non l'ho saputa ieri, proprio lì, nella vecchia via dove abitavo io prima, sempre qua in questa borgata qua, e evidentemente questi abitano intanto al piano terra, no? E hanno gli avvolgibili nelle finestre, e hanno tirato su gli avvolgibili, hanno messo quella specie di zanzariera per far passare un po' d'aria con queste giornate così di caldo, così afoso, eccetera. E quelli durante la notte addormentati sono stati svaligiati, li hanno svuotato la casa. Evidentemente questi, cosa è successo? Hanno visto la finestra che era accessibile praticamente in qualche maniera, li hanno narcotizzati, sono entrati, li hanno svuotato la casa e se ne sono andati indisturbati. Domandami a queste persone, che cosa le devi fare? Le devi solamente dare il premio o le devi mettere in carcere a vita? Io le avrei messe in carcere a vita, le avrei messe da voi portati. Già fra, uno durante la notte tranquillo, pacifico, nel sonno, non si accorge. raccogliere niente, perché arrivo questo imbecille, questo ladro o questi ladri che narcotizzano gli abitanti dell'appartamento, e poi quando ti svegli ti ritrovi con la casa svaligiata. Non è possibile, Gianfranco, dai, questo è successo due giorni fa, qua a Ripunto, per cui vedi bene. Sì, Giulio, ma sì, sta entrando, scusa un attimo, Giulio, sta entrando l'odore di fumo, qualcuno ha acceso il fuoco. Vai. E qualcuno sta facendo la grigliata, Giulio. Sì, certo, le leggi vogliono cambiate, ma non è tanto, guarda, in realtà sono abbastanza severe. Il problema non è che non abbiamo le pene, il problema è che non le applicano, che è una cosa più grave. Se puoi dare anche l'ergastolo, ma se l'ergastolo poi non glielo danno, a cosa ti servono queste pene? Punto di domanda. A niente. Appunto, le leggi magari ci sono, però non le mettono in atto come devono essere messe. E caspita, no, va bene, dai, assolutamente no, va bene. Oppure quello che svaligia ragazzi, sta le casse dello Stato e poi me lo togli libero, ma quando mai? Ma guarda, è di un'assurdità, certi atteggiamenti sono di un'assurdità proprio totale nel vero senso della parola. Vediamo chi era che voleva entrare. Avanti, Antonello, sei tu? Io te l'appoggio. Con questo BDB tu già sei, non sei certamente in anonimato con questo BDB che hai. Ciao Antonè, già lo sai, può succedere anche a te, vabbè, che tu abiti all'ultimo piano, per cui se ne fermasse non è a casa, vero? No, ma che becco che è? Senti, Antonello è riconoscibile. Ciao Giulio, poco fa ero sotto casa tua, stavo per entrare a salutarti. Ciao, sotto casa mia, sì, guarda che ti butto un bidone nell'acqua, sforzati. O perlomeno mettiti bene sotto, se hai la macchina sporca così te la lavo. Ciao Bruno. Ciao, poco fa ero, adesso sono a luna sole. Mentre non ti fa, quando ho acceso il baracchino, ho sentito via accadi, allora ero una piccina da Giuseppe lì a Ripunti, allora ho detto va, forse hai da salutare, sono entrato a salutare la mia, l'altra parte qui a Giuseppe, va bene, così fuori, in macchina sono. Me ne sono accorto, sei in macchina, 9+5 mi sta arrivando, si vede che sei un po' in altura, va bene così, sono in compagnia di Gianfranco e anche di Antonello Pomponio, avanti Gianfranco, Bruno e poi anche Antonello. Andiamo. Sì, ciao Bruno, ciao Antonello. Io ne approfitto perché mi hanno chiamato che la cena è pronta, non era accorto per fatto le 8:10. Ciao a tutti, buon proseguimento e alle prossime, ciao Giulio. Dai, avremo occasione di fare altri questo. Rientra magari un po' più presto che già ci siamo, ecco. Ciao a tutti, riprendi Giulio. Ok, d'accordo Gianfra, vedremo un po', dipende sempre in questi giorni, già lo sai, dipende sempre dalle partite. Va bene, ciao, grazie della chiacchierata, ci sentiamo, buona cena. Avanti, Antonello Pomponio. Ciao Gianfra, ci sentiamo, stammi bene, buona cena, buon tutto. Non c'ho problemi. Intanto ma Luca, avanti Luca, è ballato. Andiamo a casa, dopo. Buonasera. Siamo in nervi. Saluto a te e a chi c'è rimasto nel canale, naturalmente. Ehi, non so se mi ascolta Bruno, mi senti? A voi, anche a voi ti sento. Mi hai sentito? Ma si indola però, non mi sento poco. Cosa sono qua a Santa Maria di Pisa. Io ha fatto uno scherzo a un amico, gli è portato sotto casa via, adesso sono fatto come trovo. Si arrivano fortissimo, forte forte. Macchina, sto usando un'antenna di quelle calamità, è un baracchino di fortuna. Ok, riprendi Giulio. Ok Bruno, no, stai arrivando bene, no, non c'è problema. 9 più 5, la radio è buona. Va bene, molto, molto meglio di altre volte, non c'è problema. Sì. E allora Luca, avanti, cosa mi racconti oggi? Ma niente, mi ero già cenato, e tra un po' vado a prendermi l'autobus. Ho capito, va bene. Di quelle ventole sempre ne hai, Luca? Di quelle ventole gli ho date, tutti a Zino, ma se vuoi qualcosa te la recupero, dimmi, ora ti serve? Solo una ventolina, perché mi si è... mi si è rovesciata quella lì, ha preso una parte dell'elica, ha preso e si è rotta e adesso quando gira è rumorosissima, infatti l'ho buttata. Ne ho messo un'altra, però non è come quella che avevo prima, come quella che mi hai dato tu. Ehi, domani magari te la cerco e poi ti avviso, dovrei avere qualcosa ancora, perché gli altri dati tutti a tiro intorno erano, erano tipo 8-9, boh. Domani controllo e te la cerco, cioè domani te la cerco, io ti faccio sapere. Ok Luca, d'accordo, va bene, va bene, va bene così. Avanti Blu, ancora qualche passaggio e dopodiché dovrò chiudere. Ci sono da presto insieme a Gianfranco e c'era anche Gianni, c'era con noi Gianni Doppio Rum, però ha dovuto chiudere perché è andato a prendere la sua compagna. Per cui ancora qualche passaggio e dopodiché chiusura per me. Avanti Bruno. Ok, io sto pronto a chiudere. Vabbè Giulio, ora ci sentiamo, sono tanti altri amici, ciao Antonello, anche io mi devo fermare perché sto entrando in locale qua a prendere una questione, per cui diciamo che ci siamo pronti, ciao. Ok, ciao Bruno, allora ci sentiamo, dai, alle prossime, avanti Antonello. Ok, non ci sono problemi. Vabbè Bruno, quindi tutto a posto, visto che sei a passeggio, sei in macchina, uno di fa una maniglia, domani che le bocchette, vabbè, strano, vabbè comunque sia, meglio così, almeno fate dalla macchina, mettete qualcosa in casa almeno, questa è la magnetica. No Antonio, avevo l'antenna sul terrazzo, una boomerang, io l'ho smontata perché ha fatto temporale, ma la stava stracciando, fleceva molto, la stava per troncare, allora l'ho tolta, a casa c'è un'antenna, però per sentire un po' meglio gli amici sono su zone alte, capito? Ok, già ci sentiamo, allora devo entrare un mese e sentiamo la commissione, sentiamo un altro momento, ciao a tutti. Va bene, ciao, ci sentiamo dopo, ok, non c'è problema, guardate che rimasto. Luca. Anch'io vi saluto che vado a prendermi l'autobus, dai, se ci siete dopo sono le prossime. Ok Luca. D'accordo, dai. Ci sentiamo allora, dai, grazie per essere entrato a salutare. Vabbè, ieri non ne ho ascoltato radio, infatti ieri, cioè la domenica scorsa nemmeno, non ne avevo voglia di ascoltare radio. Già mi capisci cosa intendo dire. Vabbè, ci sentiamo, ciao Luca, alle prossime. Avanti Antonè. D'accordo. Ok. A domani, ciao, stammi bene. Con quel tipo di tutto. Sì, giù, ho mandato un messaggio vocale su WhatsApp e poi me l'ha trasmesso in diretta. Io purtroppo mi dimentico di salutare per dire a te, io saluto tutti e così non sbaglio, capito? Certo che sì, e va bene così. Io qualche volta quando ho fatto la richiesta, però non vocale, sempre scritta, una richiesta scritta, e tante volte ho fatto il messaggio per i CB, per tutti i CB, ma i CB chi è che ascolta? Sei tu, solo tu che ascolti a quanto sembra quel genere di musica, tutti gli altri, non ho mai sentito nessun altro che ascolta le canzoni sataresi, va bene, dai, comunque. Già ti sento quando tu parli vocale, ti sento anche tua madre, eccetera, eccetera. Va bene così, ciao Lu, ci sentiamo alle prossime allora, dai. Vai Antone, dai, ancora un passaggio e poi chiudo, riprendi Antone. Ciao, ciao. Ciao Franco, il socio, buonasera, sentito. Ma se vuoi ci dici satarese, ti dico io mi. Per quello non c'è problema, io ho parecchio. Se no, tanto non ne faccio niente. Ok. Ciao, ciao. Ciao, Fra. Dai, sto chiudendo. Adesso si è arrivato. Come mai questa assenza? No, sono salito qua, adesso è acceso e vi ho sentito, sono stato almeno a salutarvi. No, anch'io sto a mangiare. E è assenza, e è assenza. Sto accendendo lì adesso, l'ho acceso così perché sono salito, se no la casa è chiudata. Ok, anch'io in questo periodo sono un po' assente dal baracchino perché sto seguendo i campionati europei di calcio, per cui ci sono partite praticamente durante la giornata, incominciando dalle 3 del pomeriggio, anche alle 6, tante volte, e poi la notte, per cui proprio all'ora del baracchino c'è la partita e magari sono assente anch'io. Non è oggi, no, oggi perché non ce n'era, per cui ho optato per la chiacchierata, insomma, ecco, tutto lì fra. Ciao, va bene, dai. Ciao Giù, ci sentiamo, che mi sta di nuovo chiamato. Ciao Luca, ciao anche a Antonello. Avanti Luca. Luca aveva già chiuso, fra, vabbè, ti mando a Antonello. E anch'io saluto, dai, ciao Fra, ci sentiamo. Ciao Antonè, a te il microfono per salutare a Franco e anche a me se credi e io chiudo poi dopo il tuo passaggio. Avanti Antonè. Non c'è problema, ciao. Ci siamo domani a Lille, stammi bene. Buonanotte, buon tutto e alle prossime. E beh Franco, il socio, come andiamo? Chi lo sta chiudendo? Gli altri lo stesso, quindi siamo la stessa, la metto in due, a meno che lo chiudi anche tu e chiudiamo il tutto, va a far cuffia. Allora Antonio, sto chiudendo anche io. Sono entrato solo così per vi ho sentito per salutare, niente di più. Comunque dai, ce la ascoltiamo. Alle prossime, Antonio. Ciao, ciao. Ciao, state bene, alle prossime. Buon quarantino a tutto. A domani. Andare, hurry up. Ma. Com'è? Cosa si dice? Ma niente, mi stavo provando una cosa, ho toccato il microfono un pochettino, adesso va bene. Chissà che cavolo gli è preso. Ora. Ora un pochino meglio, ora. Ecco qua. Vabbè, sto ascoltando con un balacchinetto, dai, non so, non ti posso dire neanche quanto stia andando perché è a LED, quindi no, a 2 watt questa roba. Beh, Giovanotti. Buonasera a lei. A tu, schirrendisi. Come si schirrende? Schirrendi, a me, in algarese. Allora? È già pro 10. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera. Non stavo andando, non stavo. Mi si è rimesso a posto, ho toccato il microfono, sta andando. Cabba, buonasera. Sono in compagnia di Tino. Oggi Tino sei piccolino. Non avevo sentito che sei con l'antenino, così? Sì, è un baracchino da 2 watt. Va bene, no, sono un attimino di passaggio, perché sto facendo una cosa sul mezzo e quindi ce l'avevo acceso. Ho capito, l'altro giorno ti stavo chiamando Antonio ad Alghero, ma non mi sentivi? Ad Alghero? Antonio arrivava ad Alghero l'altro giorno, lo chiamava ma lui non mi sentiva, io non arrivavo sicuramente con l'antenna della macchina. Sicuramente per ragazzino, vera. C'era un po' di propagazione, figurati se ascoltavi a me, se non c'è silenzio tombale non arrivo a Sassarita con la macchina. C'erano certi che mi arrivavano a fondo scala pure. Ad Alghero con quella Gigino, gli arrivo già. Ma io sento quasi tutti, non segnali altri, però almeno di radio, di modulazione arrivate quasi tutti. Capo, già un grido già. Adesso riattacco lo strumento, ora che c'è il microfono che mi rompe i cazzi. Ogni tanto fa le bizze, fa. E tu dove sei, Tino? No, io sono qua dentro il container che sto preparando una cosa per il camper, quindi sono di passaggio, dai. Ho capito, mamma mia, c'era caldo dentro il container? No, questo è commentato, no, questo era più di, se non sbaglio, 12 o 13 centimetri di commentazione, quindi sono quelle... le cabine che usavano lei nel un tempo dove mettevano i motori, quindi sono abbastanza turbentate. Capa, ne ha una un mio amico, è un radioamatore di Sassari, è militare, ma tu devi vedere dentro com'è. Lui si è attrezzata là di vita, no? A radio. Sopra c'ha una bella antenna, vabbè. E anche quella è coibentata. Ha i sedili che carrellano su binari, che si muovono da destra a sinistra su binario, una cosa allucinante. Bella, bello davvero, scaffali, tutto attrezzato. Una dibita sassizza. Mi è tolto le parole da bocca, Antonio. No, lo usa proprio come radio, come stazione radio la usa. Molto bella. Ma tu non hai capito cosa ha detto Antonio? Lui l'ha fatta per stazione radio, io l'ho fatta per un'altra cosa, capito? Vabbè, poi adesso il periodo è quello che è, quindi mi sono fermato, però faccio altri lavoretti qua, dai. Ho capito, no, chiedo scusa allora, non avevo capito. Adesso la posso in radio, adesso la posso la salsiccia, che è più buona, però. Io credo. A me, io sono avanti di queste cose qua, capito, quindi ho trovato questa, ed è bella coibentata, poi c'è stato anche un clima, quindi nel caso succede che qualche sbalzo di temperatura, automaticamente si accende e tiene sempre stabile questa temperatura, capito, quella desiderata. Va bene, signori, dai, io mi allontano che devo fare cosa dall'altra parte, quindi sono in quel X, dai. Va bene, poi mi dirai anche come fai con l'umidità per tenere sotto controllo anche l'umidità. Va bene, dai, buon lavoro, avanti a tu. Capa, ciao a te, buon lavoro, sentiamo. Chi mi bisogna dire nella bemmi? Cazzo, che devi fare bene la salsiccia. O ci metti un vaporizzatore oppure io mi sono inventato una... con delle ventole del PC... ci metti delle bottiglie ghiacciate, quindi vanno anche loro l'umidità giusta, capito? perché per far stagionare queste cose ci vuole il clima adatto, sia umidità che fresco, dai, tutti e due ci vuole, perché se metti il clima penso che lui ti asciughi l'aria, quindi poi ci vorrebbe anche l'umidificatore, no? Insomma, un compromesso ci vuole, dai. Bravo, va bene. Avanti a tu. Mi ricordo quando ero piccolo che c'era mio nonno che quando si ammazzava il maiale era una festa, caspita. Allora per la gantina fresca, vedi, e se pure in chibi, all'antica. Poi prima, ad esempio, neanche il frigorifero c'era prima, infatti un mese lo ammazzava zio Francisco, il maiale si divideva la carne per tutti, no? per tutta la famiglia, a volte anche il vicinato. Poi non so, dopo un altro mese lo ammazzava un altro, e così si andava avanti. Qualcosa si metteva sotto il sale, qualcosa si cucinava, qualcosa si faceva la salsiccia, quei conservanti, il lardo, tutte queste cose qua, non si buttava via nulla. Il sanguinaccio con l'uva passa, appena lo pungeva subito mia nonna andava con tegame e la frusta di legno per non farlo coagulare, no? E a volte ha ammazzato Falcone, era una cosa di lusso quella salsiccia, La Falcone, l'ho letto. E allora, faceva un giorno con la calzetta, sai come usciva bene con la calzetta di quelle, mi dai, quelle che si davano una volta in tempo di guerra, quelle nere, la salsiccia, era di lusso, era. Chi sa di pure salsiccia, Antone? E allora? Ciao, Antone. Saluto da tutti, comunque. Capo, ben sentito. Stiamo rivangando vecchi tempi. Già me ne sono accorto. Vabbè, là, che faccio un attimo di bianco. Vabbè, là, c'è l'altro, la verità. Salsiccione, quello figlio di loro figli, senza Falcone, vabbè, lo stesso. Quello battato, mi sembra quello battato, gli fai un belletto di patate e vediamo dei buoni sopra. E lo credo buco, no, si è batta così, ricca, ci mancherebbe. Ma sta avanti. Ma ormai sta rinfrescando, si sente tirare un po' d'aria. Sì, no, ora. Ma sai che io con il fresco poi entro la baracchina là. Ci ho caldo, ho mangiato la roba calda. Scappa. Antonello, non l'ho vista, oggi ho guardato un pochettino, ma non l'ho vista proprio l'antenna di tua sorella. Attaccato al telefono interno, capito? Interno però, non esterno. Quindi è in orizzontale, non lo vedi per forza, è logica la cosa. Ho capito, fai quello che mi arriva a rompe. A parte è di fronte a te, non sono l'altro, comunque sia, sia proprio di fronte a te, a un certo punto. Antonello, ogni tanto si fa sentire niente. Ehi, ogni tanto, anche l'altro giorno c'era. Ma sì, a fare salsicce. Adesso sono uscito fuori che sto attaccando delle cose sul mezzo, dai. Vabbè, sì, fai quello che devo fare, non c'è problema, non ti preoccupare. Adesso mi rompi. Andare, dai. Con questo migliore, arrivo meglio. Sì, no, va bene. Qua sei sempre basso. Prima di peggio. Addirittura, peggio. Qua mi arriva il segnale di uno. No, qua è alto, radio 5. Ma io la mia antenna è sempre quasi in terra, io lo sai, no? Capa, no, qua non c'è problema. Non so Antonello che è più lontano, ma io lo sento bene. Ma di un bel pure, arriva 7-8. No, vabbè, ho cambiato il radio e poi c'è un motore spento adesso, quindi non sta rendendo. Qui purtroppo soffro un po' di ricezione questa zona qua, cioè da questa zona, l'antenna che soffre. Ah, vabbè, ieri con Gianni ero una cosa, estimando, 9:10, quindi già vabbè. Signore, vi devo mollare che devo uscire, ciao. ok, beh, poi col mare in mezzo imbatti di più, no, la coppa è la mia, non è la tua, la mia antenna che è coperta, capito, che non è sul tetto, però ti ascolto, quindi già va bene così. Buona serata, buon tutto, avanti Anto. Capo, buona serata, buon tutto, va, ce la risentiamo. No, io non ho problemi, io lo sento bene, capo. No, ma lo sento bene anch'io, è che magari ho lo smitter che non segna bene, cosa ne so, boh. Però rispetto agli altri, rispetto a come lo sento sempre in genere, che mi arriva 9:10, 9:20 da casa, No, quando a casa a me ne arrivi pure 9:20, è un'altra cosa, Oh, l'altro giorno me l'ha spezzata l'antenna del vento, io non c'ero, ero all'Alghero, sono rientrato a giù, l'ho trovata inclinata a un lato. Praticamente l'anima che c'era in legno, sicuramente l'antenna fa condensa di notte, si marcisce il legno subito, manco due anni ha durato, dai. Porca. Un'antenna un po' più robusta ci vorrebbe. Diciamo che il paletto non vuole il legno, vorrebbe un vetro resina, bello robusto, capito? Il legno dopo due anni, visto, si è trasigato, oppure vorrebbe trattato con qualche cosa, con della catramina, qualcosa per proteggerlo. Vieni qua, passa, ti pigli una canna fresca che ne fidi vento, c'è un po'. Ti fidi vento, come si dice, quel prodotto in modo che faccia tutto, come si dice, quel cavolo espanso, se sei a posto. Ma c'è aspettato proprio sotto la bobina, siccome non gli puoi mettere roba metallica, e quindi o ci metti resina o c'è fibra di vetro o ci metti legno. Io ci ho messo legno perché c'è la cosa più economica. Vabbè, ma se vuoi ce l'ho qui, c'ho tre tipi di canone da pesca diverse, corte, quindi riempi il proprietario sponsor, sei a posto, tranquillo, non ti preoccupare, quando vuoi me lo dici, passa a casa te lo prendi, e sei tranquillo. E sei sicuro che sono in vetroresina? Non è che sono in carbonio o no? Non è il carbone, il vetroresina, sto crescendo. Passa a casa te le prendi, fregatele. Venga, parla, se mi serve già ti cerco. No, anche io già ne ho qualcun'altra. Ne ho un'altra nuova addirittura. Sempre, però invece che da 8 metri, da 7 metri. Però la uso quando vado ad Alghero, a volte la metto nell'albero. Invece questa volta non ne avevo, ho provato a usare l'antenna della macchina. E mi ascoltava Roberto a malapena, Roberto Quadrato. Vabbè, che Claudio mi ascolta. Vabbè, mettiamo la testa per la sicurezza, ce l'ho anch'io, ahorita. Non l'ho mai usata, l'ho usata solo una volta. La tengo da parte più che altro per impiantarla sul palpetto, nel caso dovesse, adesso non c'è più il capo condomino, quindi quello vecchio, c'è il nuovo, gli chiedo il permesso di passare il cavo, del 58 per i 60 metri di quel tipo di cavo, e sto scendo a casa di Giovanna e a me lo usa con l'antenna. La riempio di proiettare lo spazio e se la piglia in culo, capito? Almeno non deve stare sul battetto, la piazza d'antenne e cose del genere, ne salvo io, ne salvo. Meno male avete cambiato amministratore, allora dai, buone notizie. Avanti a tu. Andato, sai, rompi palle. Sei tolto la metà piede, rompi palle, l'ho fatto oggi. Quindi, adesso mi installo ciò che voglio io. Devo solamente aspettare, siccome la mia parola è di 23, hai capito? Quindi a un certo punto mi faccio parlare la calata da su, dal soprattutto direttamente giù a casa di mia sorella. Dopodiché da lì si ferma e si vede un po'. Quello che deve venire è migliore. Sì. No, è migliore, molto meglio quello che ci dà adesso. Molto, ma molto meglio. Però ragiona, me lo quello, sì. Non c'è problema. Io devo fare adesso la coppia, come si chiama, di quelle come si chiamano? Tutti quelli che sono stati capitati a me, la questione della concessione, che poi non esiste più, quindi c'è un po' punto. Mi faccio questo problema del giovane tranquillo, hai capito? E non faccio altro che salire sopra, piatto con la canola a pesca, la vernice è nero, dopodiché gli cedo il 1258 direttamente in casa sua. Lui fa quello che vuole, a me non me ne frega niente, se vuoi installare il salone o installare il salone, se lo vuoi installare qualche altra camera, installare qualche altra camera, basta.